Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Raccontare la guerra attraverso un matrimonio, raccontare il senso di perdita, raccontare la volontà di aver fede in qualcosa e poi la disillusione. È quello che fa lo scrittore americano Elliot Ackerman nel romanzo Il buio al crocevia, pubblicato in Italia da Longanesi con la traduzione di Katia Bagnoli. Ackerman, che ha meno di 40 anni, è stato un Marine durante la guerra in Afghanistan e in Iraq. Lasciato l'esercito è diventato giornalista e scrittore e ora vive per la maggior parte del tempo in Turchia. Caratteristica dei suoi romanzi, il precedente si intitolava Prima che torni la pioggia, è quella di raccontare le guerre sempre attraverso un punto di vista umano e senza mai prendere posizione. L'inutilità dei conflitti e della violenza, ma anche come cambiano etica e valori quando ci si trova all'interno di una guerra. E questa è la grande qualità di Elliot Ackerman, che emerge anche in questo Il buio al crocevia. Raccontare la guerra attraverso un matrimonio, dicevamo, e infatti in questo romanzo vediamo una coppia di profughi siriani, Amir e Daphne, che vive in Turchia al confine con la Siria. Lui vorrebbe gettarsi alle spalle la guerra e provare a iniziare una nuova vita, lei vorrebbe tornare in Siria perché non è convinta che la figlia sia morta sotto i bombardamenti. Nella vita di Amir e Daphne arriva Harris, un iracheno che da anni viveva con la sorella negli Stati Uniti e che però decide di lasciare tutto per andare a combattere in Siria contro il regime di Bashar al-Assad. Harris ha già vissuto la violenza della guerra in Iraq, eppure decide di abbandonare la sua serenità e andare, tornare in guerra. Che cos'è? Una forma di idealismo? Ecco che cosa ci ha risposto Elliot Ackerman. Uno degli interrogativi del libro è perché Harris torna in guerra. Uno dei temi che ero molto interessato a esaminare in questo romanzo è come certe azioni, come andare in guerra, per esempio, possono essere compiute per ragioni molto, molto diverse tra loro. Alcune volte sono ragioni che non capiamo nemmeno noi stessi. Quando Harris va a combattere in Siria, non sappiamo esattamente all'inizio del romanzo se ci va per redimere se stesso o, è possibile, per distruggere se stesso. E una parte significativa del libro è incentrata sul comprendere la storia di Harris, chi è e cosa motiva il suo agire. In questo romanzo tutti i personaggi sembrano avere una ragione per quello che fanno. Ci sono personaggi che a un certo punto mentono, fingono, prendono in giro gli altri, ma poi si scopre che lo fanno perché hanno una ragione profonda. È così labile il confine fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato quando un paese è in guerra? Penso che sia una delle grandi lezioni della guerra. La guerra non è bianco o nero, ma riguarda le aree grigie. Ciò che ho sempre cercato di fare nei miei scritti è di dare forma a quelle che io chiamo equivalenze emotive. Mi spiego. Per qualcuno che non è mai stato in Siria o nel sud della Turchia, o che non ha mai partecipato a una rivoluzione, come i personaggi di questo libro, qual è l'equivalente emozionale nella vita di tutti i giorni? Quindi è una storia di guerra, ma è ugualmente una storia d'amore che riguarda un matrimonio. Se ci pensiamo bene, il matrimonio è una specie di rivoluzione dove due persone prendono due mondi separati per farne uno solo. Qualche volta funziona, qualche volta fallisce, e quando fallisce si vede la distruzione che deriva dai cuori spezzati, così come c'è distruzione e dolore che possono derivare da una rivoluzione quando le persone immaginano un nuovo mondo. È una situazione molto simile. E a proposito di matrimonio, veniamo agli altri due protagonisti del romanzo, Amir e Daphne. Sono dei rifugiati siriani e vivono in una sorta di limbo al confine con la Turchia. Amir vorrebbe andare via, lasciarsi tutto alle spalle, invece Daphne vorrebbe ritornare in Siria perché non è convinta che la figlia sia morta. Ecco, in che modo questa diversa visione influisce sulla vita di coppia? One of the events that occurs in the book is that Amir, who had been a revolutionary in Syria. Uno degli eventi che accadono nel libro è che un'esplosione distrugge la casa di Amir mentre lui è fuori. Amir è stato un rivoluzionario in Siria, dove viveva con la moglie Daphne e la figlia. L'edificio crolla, riescono a tirar fuori Daphne dalle macerie e per salvarle la vita devono trasportarla urgentemente in ospedale al di là del confine, in Turchia. Ma devono lasciare la figlia sotto le macerie, dando per scontato che sia morta. Quando Daphne si risveglia, lei che non ha assistito alla morte della figlia, non può accettare la perdita. Amir, invece, che è consapevole di aver perso la figlia nei combattimenti della rivoluzione, rifiuta di tornare in Siria visto che non c'è più niente da fare. Quindi lo scisma, la spaccatura nel loro matrimonio, è che Daphne vuole tornare in Siria a cercare la figlia, mentre Amir vuole che vadano avanti con le loro vite. E qui si apre una questione. Quando si ha una causa in cui si crede, è da preferire che questa causa sia senza speranza per mantenere in qualche modo fede in questa causa, o è meglio venire a patti con le proprie perdite e andare avanti con una nuova vita? Questa è la questione tra Daphne e Amir, ed è uno dei temi centrali del libro. A un certo punto nel suo romanzo lei scrive a proposito dei suoi personaggi: tutti loro avevano una spiegazione e un senso di colpa per la tragedia che li aveva colpiti. Cos'è questo? Il senso di colpa dei sopravvissuti? È qualcosa che lei ha visto accadere spesso in territorio di guerra? I think it's certainly the case that, you know, when people lose as much as they do in a war, whether it's a family. Credo sia certamente il caso quando le persone perdono così tanto come si può perdere nel corso di una guerra, che sia la famiglia, un figlio, il coniuge. E quelle perdite non possono essere compensate. Io non credo che una guerra vada avanti necessariamente a causa di un'ideologia. Credo che spesso i conflitti vadano avanti per molto tempo perché tutti hanno subito perdite importanti che non riescono ad accettare. A tutti è stata portata via un po' di umanità. Non c'è possibilità di ricucire quegli strappi. Non si può tornare a essere ciò che si era prima della guerra. E quindi la guerra, in qualche modo, continua. A un certo punto in una scena Daphne, riferendosi, diciamo, a dei profughi siriani che sono in ospedale, dice: tre anni di guerra hanno trasformato queste persone in criminali. Nello stesso tempo però lei sceglie sempre di raccontare storie di guerra, come nel precedente romanzo, guardando all'aspetto umano. Come gestisce, ecco, questo equilibrio fra il fatto che la guerra trasforma tutti in animali, in bestie, e l'aspetto invece umano che può rimanere all'interno di una guerra? When Daphne says that the war has turned these people into criminals, you know, she's also saying that sympathetically. Quando Daphne afferma che la guerra ha trasformato le persone in criminali, lo dice comprendendo la situazione, capisce in qualche modo quelle persone. Vuole sottolineare il fatto che quelle persone non sono realmente dei criminali. Le circostanze hanno fatto in modo che si trovassero in situazioni estremamente disperate, in cui hanno dovuto ricorrere a metodi come rubare, tradirsi a vicenda, in situazioni diverse considereremmo tutto questo criminale, ma in quelle circostanze sono solo metodi di sopravvivenza. Credo che quello a cui vuole arrivare Daphne sia sottolineare come i principi morali abbiano una natura relativa, soprattutto in guerra. Penso che sia molto difficile per chi sta comodamente fuori da una guerra guardare cosa accade e capire il tipo di moralità che esiste all'interno di un conflitto. Un romanzo, per esempio, sulla guerra in Siria può avvicinare i lettori a comprendere anche quello che sta accadendo. Sono anni che i giornali parlano di questa guerra, eppure sfido un po' chiunque a sapere veramente che cosa sta accadendo. Amongst the Syrian revolutionaries who became my friends, you know, many of whom were. Sono stato tra i rivoluzionari siriani. Alcuni di loro sono diventati miei amici, molti erano rifugiati nella Turchia meridionale. Parlando con loro mi sono reso conto che una delle emozioni più comuni che esprimevano era quella del cuore spezzato. Cuore spezzato perché la loro rivoluzione era fallita, perché non potevano tornare a casa. Quindi, mentre cercavo di dare forma alla storia, mi sono chiesto quale fosse l'emozione centrale che volevo arrivasse al lettore. E ho capito che era quella del cuore spezzato. Ma come potevo farlo? non semplicemente raccontando gli eventi della rivoluzione e della guerra, perché sono eventi per lo più inaccessibili e incomprensibili a chi non è stato in quei luoghi di guerra. Quindi, nel romanzo, ho scelto di raccontare la storia di una rivoluzione fallita attraverso la prigione di un matrimonio fallito, qualcosa che è più accessibile e comprensibile per la maggior parte dei lettori. I chose in this novel to really tell the story of a failed revolution through the prism of a failed marriage, something that is more accessible to most readers. E questo era Elliot Ackerman, scrittore americano ex Marine, che ci ha parlato del romanzo Il buio al crocevia, pubblicato da Longanesi. Un romanzo che, attraverso la vita dei suoi personaggi, fa comprendere qualcosa in più sulla guerra in Siria. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it vi presenta Il cacciatore di libri. Dire nascere e crescere in una città di confine, o meglio in una città che nel tempo ha cambiato i confini. Che cosa vuol dire vivere in un paese di cui non si parla la lingua? Che cosa vuol dire sentirsi straniero a casa propria ed estraneo a se stesso? Sono alcuni dei temi che ritroviamo nel romanzo La città interiore di Mauro Kovacic, pubblicato dalla Nave di Teseo. È stato fra l'altro uno dei 5 finalisti al premio Campiello 2017. Non è facilissimo dare, come diciamo sempre, le coordinate GPS di questo libro. Diciamo subito che è ambientato a Trieste, per questo si parla di estranità, di confini e così via. Quando ho finito di leggerlo, mi è venuta in mente un'immagine che non è per niente letteraria. Ho pensato ad uno zampirone. Ho incontrato Kovacic, naturalmente gliel'ho confessato, e lui non si è scomposto, anzi l'ha presa bene, ha detto che tutto sommato questa idea gli piace. Scherzi a parte, perché uno zampirone? Perché è un romanzo che parte da un punto e poi lentamente si allarga. Il punto di partenza è lo stesso scrittore, Mauro Kovacic, la sua storia, ma soprattutto la storia della sua famiglia, quindi genitori e nonni a Trieste. Le storie private di queste persone si intrecciano alle storie di personaggi famosi in modo vero o verosimile. Diciamo che alcune cose sono realmente accadute, altre chissà, forse. Ma tutto parte da quel centro, dalla famiglia Kovacic. La città interiore è un po' una mappa emotiva, geografica, linguistica, esperienziale che Mauro Kovacic ha dentro di sé. Un po' tutti noi abbiamo, come dire, la nostra città interiore. Uno degli elementi della città interiore di Kovacic, come dicevamo prima, è il senso di estraniamento, come ci racconta l'autore. È un senso di estraniamento che si tende a rimuovere a Trieste, quindi comunque metterlo in luce è un'operazione, diciamo, disagevole, che comporta disagio per chi la scrive e credo disagio anche per chi la legga se sta a Trieste. Io l'ho fatto innanzitutto nell'esperienza linguistica, lavoro con le parole, sono uno scrittore, la mia casa è l'italiano, io scrivo in italiano, tuttavia non posso dimenticare che è una lingua che io ho appreso sui libri di scuola. Allora, l'italiano come lingua è quella che ti fa rendere consapevole maggiormente di questa condizione di estraneità. Trieste è molto italiana, si sente orgogliosamente italiana, ha una lunga storia che è stata anche strumentalizzata, diciamo, da destra. E nello stesso tempo il triestino fa un uso dell'italiano che è molto simile a una lingua presa. Nel senso che, come insisto nel libro, la lingua che normalmente si parla a Trieste, se io e Claudio Magris ci incontriamo a Trieste, io e Claudio Magris parliamo in triestino. Due magistrati che si incontrano in un'aula di tribunale parlano in triestino, due primari di ospedale parlano in triestino. Questo per dire, il dialetto attraversa tutte le classi sociali, è un dialetto spurio fatto di fortissime, diciamo, prestiti dal tedesco e dallo slavo, ed è una lingua che esprime bene questa condizione di estraneità e anche di anomalia, di intrinseca anomalia di Trieste. Trieste esprime, secondo me, agli occhi dell'Italia, direi anche dell'Europa, una profonda eccentricità, una città eccentrica, nel senso anche etimologico del termine, fuori dal centro. E in questo senso mi è parso importante per la prima volta fare una specie di seduta di autocoscienza, ecco, rendere esplicito questo processo che normalmente è implicito quando mi metto a scrivere dei romanzi. C'è una frase che mi ha colpito più di tutte in questo romanzo, forse non sarà la frase fondante del romanzo, ma io sono stata colpita. A un certo punto tu dici che i miei pensieri andrebbero espressi tutti in dialetto, evito di farlo solo per non appesantire il testo più del necessario, ma i triestini pensano così, come dicevi tu. E poi a un certo punto scrivi: sarà solo al terzo anno di permanenza fuori città che una mattina, da giovane insegnante di liceo a Pordenone, mi alzerò dal letto sconvolto per aver sognato in italiano. Questo discorso di sognare in una lingua o in un'altra riguarda moltissimo le persone bilingue, per esempio, però per te era stato un trauma scoprire di aver sognato in italiano. Ma io adesso, se sono da solo a casa e impreco, in preda ad un accesso di rabbia, impreco in italiano. Fino a qualche anno fa l'avrei fatto in triestino, ad esempio, cioè la lingua che viene, diciamo, istintiva. Solo negli ultimi 15 anni è diventata l'italiano, e quella è stata una specie di rivelazione. Quel giorno, l'idea di sognare in una lingua appresa, l'idea di scoprirmi entrato, diciamo, di aver fatto ingresso nell'italiano a tutti gli effetti, in questa specie di metamorfosi che ho compiuto, è stato traumatico, è stata una vera metamorfosi. In questo senso il libro indugia molto su questo, diciamo, con molte variazioni sul tema. Perché... Ecco, infatti, a proposito di variazioni sul tema, sempre sulla lingua, tu precisi invece che tuo nonno non ha mai voluto trasmettere lo sloveno a tuo padre, cioè era una cosa tabù. Oppure nel caso di Joyce, quando stava scrivendo i primi capitoli dell'Ulisse a Trieste, che proprio essendo immerso in un'altra lingua, cioè l'italiano, aveva potuto recuperare la parte più intima, più viscerale, più bella dell'inglese. Eh sì, perché aveva accesso a una specie, diciamo, a un livello dell'inglese quasi da lingua morta, perché non la parlava più, quindi accedeva all'inglese come noi accediamo al latino o al greco dal nostro punto di vista. Può stupire, ma per me che l'ho vissuta è meno stupefacente, il fatto che mio nonno non volesse, benché comunista tra l'altro, è molto sensibile alla causa di Tito, anche questa è una doppia contraddizione, militare dell'impero austro-ungarico, quindi doveva parlare in tedesco, però di comunità slovena, lui parlava con la madre, scriveva alla madre in italiano. Ecco, quest'uomo, che, come dire, già condensa mille contraddizioni che io poi mi sono portato dentro di me, non voleva che venisse trasmessa lo sloveno. Ma perché? Perché nella sua mentalità, questo ai noi ha un fondo di verità, lo sloveno era la lingua dei vinti, cioè sempre domina la lingua dei vincenti su quella dei vinti. Quindi, dicevo, si insiste molto su questo discorso della lingua per far capire l'identità. C'è anche un insistere sul tema dei confini, perché inevitabilmente se uno è nato e vissuto a Trieste non può non aver, come dire, vissuto, anche se non direttamente, comunque da genitori, da nonni, questo discorso del cambiamento dei confini. A un certo punto del romanzo tu dici: noi abitavamo nella Trieste, nella zona A di Trieste, che era la zona dei buoni, adesso per semplificare, però io avevo un cognome Kovacic che sarebbe stato bene nella zona B. Ecco, da ragazzino, da bambino, come si vive questa sensazione, buoni, cattivi, io da che parte devo stare, ho il cognome sbagliato e tutto il resto? No, questa appunto è un'altra delle questioni, diciamo, che io rendo esplicite in questo libro, ma che, come si può dire, scorrono sotterranee nella stragrande maggioranza delle persone a Trieste, cioè una specie di rumore di fondo che tu senti nella tua coscienza, non è una cosa sulla quale rifletti. E a me però andava di mettere in luce questo aspetto. Trieste diventa italiana nel 54, ma ufficialmente la soluzione la risoluzione della divisione della città in zona A e zona B appena del 75, quindi io a 75 avevo 10 anni e queste due zone della città portavano un sentimento contraddittorio, perché da un canto noi andavamo, come dico nel libro, normalmente in zona B. La zona B era anche la dimensione delle cose più belle, perché noi in zona B andavamo a divertirci, era la gita fuori porta, si andava a mangiare perché costava molto meno, lo ricordo perché non tutti possono ricordarselo, la zona A era amministrata dall'Italia, la zona B era amministrata dalla Jugoslavia e poi quella demarcazione sarebbe diventata definitivamente il confine italiano da 75 in poi. Benissimo, noi andavamo sulle spiagge istriane della zona B a divertirci, quindi per me era anche una dimensione molto, diciamo, domestica, quotidiana, ma nello stesso tempo entravo in un posto nel quale non conoscevo la lingua, vedevo le scritte tutte diverse da bambino, anche piccoli segnali di anomalie, i gelati assomigliavano ai nostri ma non erano come i nostri. Io mi ricordo il Piper, lo dico nel libro, il Piper triestino, ovvero il Piper italiano, aveva lì una versione quasi simile, quindi c'era qualcosa anche di sinistro ed inquietante in questa diversità. A un certo punto, in questa dicotomia molto manichea, che nel libro I buoni e i cattivi è fatta così perché è mio padre che me lo spiega quando io ho 7 anni a quel punto, e nel 72 lui mi spiega: guarda, noi siamo i buoni e stiamo nella zona A e loro sono i cattivi e stanno nella zona B, e nella zona B però sono sloveni e io ho un cognome, guarda caso, che dovrebbe stare nella zona B. Ecco, questa dimensione di abusivo, diciamo, di intruso, è una dimensione con la quale moltissimi triestini sanno di dover fare i conti, diciamo, tendono a rimuoverla, come ho fatto io fino all'altro ieri, peraltro. Ecco. Attraverso questo romanzo si apprendono anche tanti fatti della storia italiana, magari anche meno conosciuti. Fra questi mi ha colpito molto la storia di Pino Robusti. Si parla naturalmente della risiera di San Sabba e credo che molti in Italia abbiano rimosso, a proposito di memoria, il fatto che anche l'Italia ha avuto di fatto un campo di concentramento con tanto di forno crematorio. La risiera di San Sabba, ecco, diciamo, tutti questi fatti che adesso noi evochiamo nell'intervista, ci tengo a precisarlo, nel libro entrano in scena per delle ragioni puramente, diciamo, congiunturali, per coincidenze, perché sono tutti riguardanti, diciamo, i fatti della mia vita, i luoghi, le esperienze, le persone che io credo mi abbiano fatto diventare quello che sono, nel bene o nel male, insomma. Per questo si chiama Città Interiore il libro, ecco, una specie di mappa mentale su di me. La risiera di San Sabba entra in scena non perché io volessi parlare della risiera di San Sabba, che peraltro è l'unico forno crematorio nazista in territorio italiano, ma perché io abitavo a 500 metri a casa dalla risiera di San Sabba. Quando ci andavo io, le lettere sparse dei reduci, delle vittime, scusate, erano tutte lì alla rinfusa, e una in particolare mi aveva molto colpito, tanto che avevo, diciamo, assurto a modello mio personale questo ragazzo, che è Pino Robusti. Pino Robusti era un ragazzo, come dico nel libro, non ebreo, non impegnato, non partigiano, non famoso, perché poi non è diventato famoso, che per caso è stato arrestato e nei 40 giorni di prigionia prima di morire è diventato partigiano, stando insieme ai partigiani che stavano lì, e ha lasciato una lettera alla fidanzata Laura, che è una lettera che su di me ha avuto innanzitutto, diciamo, lo stupore proprio che un ragazzo di 22 anni, tra l'altro io lo leggevo, ero suo coetaneo in quel periodo, quindi il problema diventava ancora più grande, cioè di come si potesse essere così, cosa dovessi fare io per diventare come lui, perché era una lettera nella quale lui mostrava una statura morale, sapendo che stava andando a morire, cioè di lì a 2 giorni stava andando a morire, e riusciva a scrivere nella lettera, a prefigurare non soltanto un futuro alla sua ragazza, ma anche a sollevarla dalla mancata illibatezza, dicendole: guarda, comunque quello che abbiamo fatto insieme è una cosa dovuta all'amore, è una cosa bella, e comunque tu avrai un bellissimo futuro, troverai un altro uomo che ti vorrà bene. Ecco, questa cosa detta da un ragazzo di 22 anni che stava per morire, per me è sempre stato un modello di vita, diciamo. Questo era Mauro Kovacic, autore di La città interiore, pubblicato dalla Nave di Teseo. È stato uno dei 5 romanzi finalisti al premio Campiello 2017. Anche per oggi è tutto. Vi ricordo che le puntate del Cacciatore di Libri, anche quelle d'archivio, sono presenti su radio24.it, andando nella sezione Programmi, Il Cacciatore di Libri. Se volete sempre essere aggiornati, potete seguirmi su Twitter o anche sulla pagina ufficiale del programma su Facebook, Il Cacciatore di Libri - Radio 24. Grazie in regia a Paolo Corleoni e Michele Previato. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.